Chi era costui? Abbiamo parlato diffusamente della basilica dedicata al santo patrono di Bologna, ma quanto sappiamo davvero della figura storica di San Petronio? A dire la verità, le informazioni su di lui scarseggiano. Sebbene durante il XII secolo sia stata redatta una sua biografia a opera dei monaci benedettini, gran parte della storia della sua vita è stata inventata di sana pianta. Era infatti uso comune a quel tempo romanzare la vita delle personalità pubbliche di spicco. Si pensi ad esempio alla leggenda sull'origine dei Bentivoglio. Secondo la geografia medievale, Petronio sarebbe nato a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, da una famiglia nobile imparentata niente meno che con l'imperatore Teodosio II, e prima di prendere i voti sarebbe stato prefetto del pretorio. Inviato a Roma per sollecitare Papa Celestino I a pronunciarsi in merito a una disputa religiosa, si sarebbe trovato in città proprio mentre una delegazione di bolognesi chiedeva al pontefice un nuovo vescovo. La leggenda narra che, durante la notte, San Pietro sia apparso a Celestino I, suggerendogli di affidare l'incarico a Petronio. Giunto a Bologna, il santo avrebbe trovato la città in rovina a causa delle invasioni barbariche e qui si sarebbe adoperato per rafforzarne le difese, consolidando le mura esistenti e dando inizio a un processo di ricostruzione dell'identità civile e religiosa della città. Tra le opere di cui sarebbe stato promotore si annovera la costruzione del complesso delle sette chiese, ispirata al Santo Sepolcro di Gerusalemme che aveva visitato durante un suo viaggio in Terra Santa. Secondo una seconda biografia, risalente alla fine del XIII secolo, che della precedente espanse l'universo narrativo, Petronio sarebbe stato addirittura il primo promotore dell'istituzione universitaria bolognese, con ben 600 anni di anticipo sulla data di fondazione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza, per quanto possibile, su una delle figure storiche fondamentali della città sulla base dei documenti storici. Che il personaggio sia realmente esistito è provato dalla sua presenza nell'elenco renano, l'antica lista dei vescovi bolognesi oggi conservata all'interno della cattedrale di San Pietro. Grazie a questo documento sappiamo che Petronio è stato l'ottavo vescovo di Bologna tra il 433 e il 450. Si parla di un periodo storico problematico in cui le razzie dei barbari erano effettivamente all'ordine del giorno. Se, infatti, la posizione strategica di Bologna l'ha resa nei secoli uno dei principali poli di scambio commerciale della penisola, ha sempre attirato anche le mire di chi intendeva saccheggiare la sua ricchezza. Sebbene quindi la verità storica sia meno prosaica delle leggende, è indiscutibile che Petronio sia stata una figura determinante nel risollevare la città in un momento di estrema difficoltà, occupandosi contemporaneamente delle questioni religiose e di quelle civili, in un contesto in cui l'autorità delle istituzioni romane era sempre più debole. Esistono due documenti a lui contemporanei che parlano di Petronio. Una lettera in cui il vescovo Eucherio di Lione lo cita come esempio di persona che aveva abbandonato gli agi di un rango sociale elevato per dedicarsi al sacerdozio, e un manoscritto in cui lo storico Gennadio di Marsiglia lo descrive come uomo di santa vita ed esercitato agli studi dei monaci fin dall'adolescenza. Nel trattato De Ordinazione Episcopi viene inoltre citato un erudito di nome Petronio che tra il 402 e il 408 svolgeva il ruolo di prefetto del pretorio delle Gallie. Costui, probabilmente, era l'omonimo padre del nostro Petronio. Da questi documenti si evince che Petronio era probabilmente nato in Gallia da padre romano, forse imparentato con la gens Petronia esistente già a Bologna nel II secolo, e che, alla carriera amministrativa, come le sue origini gli avrebbero permesso, aveva preferito gli studi ecclesiastici, presumibilmente presso il monastero di Lerino, in Provenza. Essendo stato ordinato vescovo a Milano, è lecito supporre che fosse discepolo di Sant'Ambrogio. A Bologna succedette nel ruolo di vescovo a San Felice. Che Petronio sia stato determinante per rendere la città più sicura dalle invasioni barbariche è comunemente accettato dagli storici, così come il fatto che fu lui a promulgare un rafforzamento della cinta muraria della città, che all'epoca si presume fosse un rettangolo con i vertici nell'attuale inizio di Via Galliera, in Via Carbonesi all'altezza della chiesa di San Paolo Maggiore, in Vicolo San Simone e in Piazza Minghetti. Sulle porte d'accesso alla città, Petronio fece porre quattro croci, a testimonianza del fatto che la città era cristiana, le cui riproduzioni medievali sono oggi conservate nella basilica a lui intitolata. Di Petronio non si hanno più notizie fino al 1141, anno in cui il vescovo Enrico fu costretto ad abbandonare il vescovado a causa di un incendio per trasferirsi a Santo Stefano. Al ritorno in sede, Enrico annunciò di aver ritrovato le spoglie di San Petronio all'interno del complesso stefaniano. Da qui probabilmente nacque l'equivoco secondo il quale fu lui a occuparsi della costruzione. L'elevazione di San Petronio a santo protettore della città avvenne circa 100 anni dopo, a metà del XIII secolo, e fu frutto di un singolare compromesso. Venne infatti preferito a San Pietro, ormai divenuto simbolo dell'egemonia papale, e a San Procolo, il quale, sebbene fosse molto popolare in città, era di estrazione militare e quindi legato alla figura dell'odiato imperatore, all'epoca Federico Barbarossa. Le sette chiese